musicale in un genere, non c'è nulla di aggettivo, sono solo nomi, invenzioni, prototipi ottimi per chiacchiere, promozione, recensione, per artisti monotoni, facilmente classificabili. Per me, ognuno ha il suo concetto di un genere, ogni voce diversa è un genere a sé, a parte l'hip hop, ciò che mi interessa è la controversia dell'imitazione del rap. Io quando parlo sono come i miei testi, quindi non puoi scindere quando canto da quando parlo e basta. Chiediti cos'è sto genere, definiamolo logor, se vuoi ti faccio un logo. Forse meno logor dei testi, sto beat che sembra dei club dogo, ma un club logor. Quale tipo di vestiti seleziona all'ingresso? Se sono un logor, di cosa mi drogo? E quale fazione voto? Ma il vero logor boy è favorevole al pogo? Logor è un genere che ha segnato un prima e un dopo. Logor non è un genere, è la filosofia di vita. Logor è la causa delle stragi nei licei perché incita la violenza non subita. Vabbè, diciamo che per comodità usano il termine rap. E non ho mai lavorato in un'industria, quindi più che industrial faccio casaling.